io non so se riuscirò a stare nei tre quarti d'ora, ci provo. Io credo che il giudizio che ricordava prima Prodi sulla miseria quantitativa, sull'abbassamento anche dal punto di vista qualitativo degli studi, sull'istituzione ecclesiastica nell'età della riforma, di fatto possa estendersi anche in parte agli studi relativi alle visite pastorali. Ricordo semplicemente brevemente le date delle rassegne principali, quelle d'Alberigo nel 58, di Mario Rosa, Cozzi, Cochrane nel 70, dello stesso Prodi, del Russo, Mia nel 76, e poi l'intervento complessivo che viene dall'ultimo numero di Archivi Ecclesi, che guarda agli archivi ecclesiastici, in particolare alle visite pastorali. Il mio intervento è articolato in 7 punti, adesso enuncerò uno alla volta in maniera tale che così mi richiamate anche sul tempo. Primo, le visite pastorali, al pari di altre fonti, sono prodotto di un'attività scrittoria. Già Domenico Giulia ha notato come siano profondamente segnate dalla tradizione della cancelleria diocesana, cioè lo scrittore è normalmente un notaio che accompagna sempre o quasi sempre un visitatore durante l'espletamento del suo ufficio. Generalmente un notaio di curia o il notaio di curia, ma può essere anche un ecclesiastico che prende nota. Sapere se la figura del visitatore coincide con la figura di colui che nota oppure no, sembra rilevante ai fini di un esame complessivo della fonte. Se un carattere notarile viene individuato persino in visite pastorali del XIX secolo, a maggior ragione esso traspare in visite dei secoli precedenti, che si uniformavano maggiormente ai dettami del diritto canonico. Se l'autore vero è l'autorità che ha preso l'iniziativa e che dà nome alla visita, nulla toglie la responsabilità di chi presiede e porta avanti di persona la visita pastorale. All'ultimo gradino lo scriba, che può coincidere con il notaio e talora con lo stesso visitatore. Nel caso di perfetta identità fra queste figure non si hanno problemi. La scrittura risponde appieno alla volontà dell'autore o del suo delegato. Diversamente la scrittura subisce una mediazione su cui può intervenire, ma non è detto, l'autore, quando non la trovi pienamente rispondente ai suoi occhi. Gli attori che si muovono sulla scena scritta e reale sono i visitatori. A seconda che si sia in presenza di un vescovo, di un arcidiacono, di un vicario, oppure di un semplice delegato o commissario, come il Pievano ad esempio, lo svolgimento non presenta il medesimo interesse, ma è anche vero che spesso si hanno sostituti e delegati attivi, preparati, che seguono materialmente un incarico affidato in modo più o meno puntuale, più o meno burocratico, più o meno standard. Ciò che distingue visitatore da visitatore, qualunque incarico di dignità rivesta, è la vastità dei problemi sottoposti ad indagine. Anche la conoscenza della figura degli attori non è indifferente per un approfondimento della fonte. Certamente la fisionomia del visitatore può contraddistinguerla in maniera diversa, ma nel complesso la fonte sembra profondamente segnata dalla tradizione della cancelleria diocesana. Anzi, fra la prima redazione, stesa di solito nel corso della visita, e la sua definitiva trascrizione, non solo era possibile, nota la Russo, una dispersione della documentazione, ma si verificava anche con ogni probabilità il conformarsi a stesure di precedenti verbali. Come agisce il visitatore? Se teniamo presente le indicazioni date dal Cardinal Borromeo del Concilio Provinciale Milanese del 1565, compendianti una lunga tradizione giuridica e presto presa ad esempio da altri visitatori, risulta che bisogna procedere in un certo modo. Vi faccio grazie. Certo è che comunque, ad esempio, lo stesso Papa Clemente VIII, sulla fine del Cinquecento, nella visita del 1592 alla città di Roma, segue lo schema borromeano. Quando esamina gli altari, il tabernacolo, la suppellettile sacra, immagini, ornamenti delle chiese, quando indaga sulla consacrazione degli altari, sulla loro dotazione, quando ispeziona gli oli sacri, le reliquie, la sagrestia, l'archivio, eccetera, dispone di un prontuario di 26 voci principali, di ben 165 voci di riferimento, indicative di altrettante domande d'inchiesta. In sostanza, il visitatore, come oggetto da esaminare, ha una pratica, costituita dal quadro materiale della vita parrocchiale e dalla condotta e fedeltà dei chierici e dei laici, quanto a dire deve compiere una visitatio rerum e una visitatio hominum. Visitatio rerum, ovviamente, gli edifici, il loro arredo, il loro decoro. Quindi c'è l'esame delle rendite della chiesa, la loro amministrazione. L'accertamento mira a garantire che quanto attiene di diritto alla chiesa e al culto sia conservato e tutelato con cura. Visitatio hominum. Il visitatore esamina i chierici, chiunque anche abbia rapporti col personale ecclesiastico, ne verifica la condizione canonica, l'osservanza degli obblighi, giungendo a investigare attentamente nelle pieghe della vita morale e abitudinaria del clero. Talvolta ne verifica il livello culturale. Il visitatore esamina anche la condotta dei laici. Fidandosi molto spesso delle informazioni del clero, si interessa dell'osservanza dei comandamenti della Chiesa, della morale, della religiosità popolare, delle associazioni laicali. Il visitatore trascrive o fa trascrivere informazioni di varia natura sull'insieme di questioni materiali, istituzionali, sociali connesse, questo mi preme sottolinearlo, con una data chiesa parrocchiale. Ma non tutte hanno la medesima provenienza né la medesima portata. Difatti, mentre la visitatio hominum non può prescindere da testimonianze raccolte e spesso per giunte incomplete e da valutazioni riportate e quindi una volta trascritta risulta doppiamente mediata, la visitatio rerum si fonda principalmente sull'accertamento compiuto dal visitatore con i suoi propri occhi, eventualmente mediato dallo scriba. In quest'ultimo caso si possiedono documenti oggettivi e la definizione della data tramontina, come gli elenchi delle reliquie, delle indulgenze, dei sacerdoti, degli oratori, degli obblighi di messe, dello stato patrimoniale, la descrizione della visita alla chiesa, comprendendo spesso i titoli degli altari, magari i nomi degli autori di statue o tele. Questi elenchi o inventari, quando sono descritti analiticamente, rispondendo a un criterio di natura burocratico-amministrativa pienamente rispondente al carattere giuridico dell'atto di verifica di tutela, permettono anche un accertamento quantitativo. È ovvio che le visite pastorali sono una fonte preziosa per la conoscenza della storia religiosa della società italiana, questo mi pare così banale, soltanto che in realtà la stessa definizione di fonte implica una serie di problemi, e in primo luogo quelli relativi alla sua filologia. Spesso le visite sono state lette con la lente deformante del codice tridentino, né esemplare testimonianza quanto, ad esempio, scriveva Marcocchi in Riforma Cattolica, Antologia dei documenti. E a questo carattere non era sfuggito lo stesso Alberigo in anni ormai lontani. Rimane fondamentale la questione di chi legge la fonte, questo è il dato di fondo, dello storico, cioè del suo background culturale, del suo modo e della sua capacità e sensibilità di interrogare il documento, di porre le domande giuste che sollecitino la ricchezza della gamma delle informazioni. La fonte parla secondo quello che lo storico, partendo da un problema, le chiede e secondo i modi con cui lo storico la utilizza e la legge. Quali domande porre allora? Lo storico, quando aggredisce la fonte, non è solo. Si presenta all'incontro armato di strumenti e talvolta deve costruirli appositamente. Ma quali adottare per soddisfare a un desiderio di conoscenza sempre più grande? Partire dallo schema di una griglia di domande? Partire dalla fonte per delineare uno schema? Queste domande sono secondarie rispetto a quella più importante. Cosa si vuole sapere? Interrogativi siffatti, che pescono in profondo dalla vita del mestiere dello storico, radicali e ineludibili, si riversano sulla fonte. Una sua corretta lettura è possibile solo se si colloca nel suo contesto naturale. Mi preme sottolineare il contesto naturale, cioè quello pastorale. Si capisce, perciò, come fosse finalizzata la conoscenza della società religiosa e delle istituzioni ecclesiastiche e non della società civile. Naturalmente la fonte, come tutti i documenti di storia, non è unidirezionale, offrendo spunti, lumi, spie anche in altre direzioni. Tuttavia spesso si è verificata un'attenzione eccessiva al carattere pastorale della fonte, compendiato nella pastoralità di questo o quel vescovo. Le informazioni si sono usate per ricavare elementi individuanti nel concreto dell'azione, attività la cui somma forniva come risultante un concetto. La cosa è quantomeno singolare. Simili concettualizzazioni non si teorizzano per nessun altro tipo di fonte storica, non per atti notarili o catastali, non per statuti e così via. Se ciò è indice di una lettura che va oltre la fonte stessa, approfondendo gli aspetti ed elementi che ne stanno a monte, scavando quindi nella cultura degli attori ed estensori della fonte, in modo più agevole che da altre parti, tuttavia indica anche un forte condizionamento indotto dalla fonte stessa, e spesso accettato. In genere, nelle ricerche si forniscono anche materiali utili per una storia sociale, ma essi non sono l'obiettivo prioritario, bensì un esito indotto, e per giunta finalizzato ad illustrare un uomo in un ambiente. Naturalmente le visite pastorali sono una fonte privilegiata per la comprensione dell'attività dei vescovi, di cui documentano alcuni, ma solo alcuni, momenti salienti. Inoltre, attraverso di esse è possibile cogliere, talora solo in modo implicito, bastando a volte silenzi o insistenti su alcuni temi piuttosto che su altri, la sua sensibilità, il suo ideale pastorale, la sua formazione intellettuale, il suo rigore morale. La formulazione più limpidamente cosciente è stata data da De Rosa, quando ha individuato le visite pastorali principalmente come fonte per lo studio della pastoralità di un vescovo o dell'atteggiamento di un clero in una data circostanza storica, e, secondariamente, come fonte integrativa per lo studio della società religiosa, che non può esaurirsi nella storia della pratica religiosa, dell'applicazione o meno della riforma tridentina della spiritualità e nemmeno della storia delle specifiche strutture ecclesiastiche. Si tratta di interessarsi del contesto, più che dell'uomo, pur importante, di guardare alla realtà ambientale in cui il vescovo opera. Allora la visita, prima ancora di essere la forma più capillare di esercizio della giurisdizione episcopale, è il mezzo attraverso cui il pastore ordinariamente si pone in contatto immediato con i fedeli che si raccolgono intorno a una chiesa o cappella, casa religiosa, più istituzione, eccetera, stabilendo anche comunicazioni dirette con le personalità ecclesiastiche e laiche che esercitano una certa influenza sulla zona. Da questo contesto pastorale e culturale non si può prescindere. Altro è tener conto di questo, altro è lasciarsi condizionare dal documento a tal punto da riflettere nella situazione spirituale, sociale e culturale in cui era stato scritto. Questa, semmai, è oggetto di riflessione e di analisi. Perciò, tanto Vauvert quanto De Rosa hanno inserito le visite pastorali fra le fonti non innocenti, ma quale fonte storica lo è, peraltro, in quanto portatrici di un discorso e di un punto di vista, quello dell'autorità ecclesiastica. Basta esserne avvertiti e coscienti per evitare rischi e conseguenze sul piano dell'interpretazione della fonte stessa, che tuttavia trascrive testimonianze. Punto 2. Le informazioni che si ricavano solitamente dalle visite pastorali sono relative all'organizzazione ecclesiastica, come ad esempio composizione del clero, percentuale di parroci residenti e persino la posizione geografica di una parrocchia. Si va anche alle condizioni materiali delle singole chiese, ai beni immobili, allo stato patrimoniale e così via. Insomma, fiorano molti dati significativi riguardanti la situazione religiosa, morale, culturale, economica e sociale delle diverse località. In genere, tuttavia, i dati sono meno espliciti per ciò che concerne la vita religiosa del clero e dei fedeli. In quest'ultimo caso si possono avere notizie sulla frequenza della messa, sui livelli di istruzione sociale e religiosa della popolazione, talvolta, sull'insegnamento catechetico, frequentato da grandi e piccoli, sulle associazioni laicali organizzate, sui rapporti fra nobiltà o borghesia locale e clero, eccetera. Ma occorre fare il punto per valorizzare appieno le possibilità informative offerte dalla fonte. Una rapida ricognizione di quanto si è ricavato in studi parziali permette di accrescere la serie delle domande che lo storico pone in vista di una piena utilizzazione dei materiali. Infatti, anche un'indagine amministrativa di carattere burocratico offre indicazioni che superano problemi amministrativi. Sotto i nostri occhi sfilano geografia e toponimia, archeologia e cronologia, liturgia e diritto canonico, demografia, sociologia, psicologia di gruppo, storia della cultura e dei costumi, delle arti, della tecnica e delle tradizioni popolari, come ha notato Le Bras. Ma non mi sembra superfluo esaminare qualche aspetto tematico nuovo, si fa per dire, messo in luce o in nuova luce dalla storiografia recente. Informazioni demografiche, ad esempio, relative a fatti individuali che compaiono su scala di massa, spesso redatte secondo schemi fissi, non sono pienamente attendibili, una loro rigorosa utilizzazione statistica è limitata da difficoltà inerenti a imprecisioni, approssimazioni vacue. Tuttavia si assiste a una rinnovata attenzione non solo e non tanto da parte di storici, soprattutto locali, quanto da parte di studiosi di demografia, consci della loro importanza soprattutto per i periodi in cui le principali fonti tacciono. Qui richiamo solo il volume Le fonti per lo studio della popolazione della diocesi di Perugia dalla metà del XVI secolo al 1860, dove si prende in esame questo materiale. Informazioni urbanistiche. Come insospettate fonti per la storia della città e della sua organizzazione urbanistica, le visite pastorali vengono riconsiderate soprattutto, almeno in ambito pugliese, anche se con risultati che lasciano perplessi. Gli edifici ormai scomparsi, la cui rilevanza archeologico-urbanistica non è affatto trascurabile, costituiscono talora l'unica o una delle poche tracce scritte. Vi ricorre anche per l'urbanistica di Ravenna paleocristiana, vi si ricorre anche per l'urbanistica di Ravenna paleocristiana, costituendo la fonte principale più attendibile sullo stato materiale degli edifici ecclesiastici al tempo della visita. Tuttavia l'eccessiva minuzia del dettaglio spesso non lascia percepire una visione di insieme. Mi pare buono il risultato conseguito dalla Gabriella Picaluga per la Val Camonica, proprio partendo dalle visite pastorali. Non si possono neppure trascurare possibili notizie su trasporti, come condizioni di viabilità, mezzi di trasporto usati dal visitatore e dal suo seguito, itinerari di visita, eccetera. Anzi, dalle tappe del visitatore talvolta si risale al ruolo giocato dalle circoscrizioni amministrative. Inoltre, una cartografia cronologica degli itinerari permetterà di definire l'universo spazio-temporale dei visitatori stessi. Informazioni economiche. Beni ecclesiastici, decimi e benefici vengono sempre più attentamente esaminati, anche se non sono stati ancora sufficientemente valorizzati tutti gli elementi relativi, ad esempio, alle condizioni patrimoniali degli enti. Un certo carattere notarile della fonte è evidente, specie per periodi in cui era prevalente la preoccupazione per la difesa dei beni ecclesiastici e per la conservazione degli oggetti sacri. e qui diventano importanti gli inventari. Vi è stato anche chi ha pensato a un'utilizzazione dei dati ai fini di una storia dei prezzi, in particolare dei prezzi dei fitti degli immobili, dei terreni urbani ed extraurbani. Però si tratta probabilmente della peculiarità, ad esempio, della visita napoletana del 1542-43, però non si può non tenerne conto per la prospettiva aperta. Informazioni culturali. Al di là della conoscenza del patrimonio e della dotazione libraria di una chiesa o di un chierico, dove ciò che interessa al visitatore sono gli oggetti, ricavare elementi validi per la storia della cultura materiale non è facile né agevole, ma limitandosi ad alcuni aspetti particolari, come la casa, l'arredamento, gli ospitali, alcune tracce emergono, sia pure di sfuggita. La fonte è interessante soprattutto per il XV e XVI secolo, ma è apprezzabile anche per altre età, sia quando si disponga di inventari analitici, sia quando si abbia a che fare con indicazioni scarne o sintetiche. Oltretutto, le visite pastorali, come notato De Rosa, costituiscono indubbiamente la fonte più sicura per lo studio della pratica religiosa, in quanto trascrivono gesti e pratiche, comportamenti e atteggiamenti collettivi, sia pur filtrati attraverso la fonte stessa, la sua natura ecclesiastico-istituzionale. È possibile persino capire quel sentimento della morte che era incorporato, per così dire, nella struttura stessa materiale della Chiesa, a patto di usare una metodologia adeguata. E qui c'è uno spunto tutto nuovo, partendo proprio dalle visite pastorali, che De Rosa ha fatto di recente. È possibile persino partire da elenchi dettagliati di titolature di oratori, capitelli, altari con specifica dedica, talora assai più significativi delle titolature ufficiali, ed è possibile partire anche da raffigurazioni iconografiche quando siano descritte, per cogliere l'orientamento popolare con l'obiettivo di individuare la circolazione dei culti. Qualcuno si è cimentato in questa direzione, richiamo solo l'intervento di Joss su altari e santi nelle visite pastorali padovane, fine del XV e inizio del XVI secolo. Si tratta di aspetti che, se non risultano esplicitamente o immediatamente evidenti, emergono dalla fonte solo grazie alla pazienza della ricerca e alla peculiarità delle domande poste. Allora, se non si può prescindere dal contesto pastorale sempre da valorizzare, sfruttare la fonte nel modo più completo significa allargare l'orizzonte del campo strettamente ecclesiastico e disciplinare. Per fare questo, però, lo storico deve avvicinarsi in maniera diversa, più laica, alla fonte stessa, cercando informazioni di natura non solo pastorale, sociale e religiosa insieme, ma anche civile, evidenziabile se non altro per l'ottica nuova attraverso la quale è possibile osservare e valutare i fenomeni. Punto 3. La pratica religiosa è abbastanza facilmente rilevabile attraverso l'esame della fonte, come dato visibile esteriormente. Percepito come gesto religioso codificato in gesto sociale, in fatto tangibile, lascia traccia scritta quasi in tutte le visite pastorali, essendo legato al costume. I pascalizzanti si trovano al primo posto nelle preoccupazioni del visitatore, che se ne accerta accuratamente. Per quanto riguarda i messalizzanti, invece, occorre fare attenzione non potendosi attribuire alla rilevazione di simile pratica un valore sicuro, in quanto riferita e mediata sia attraverso testimonianze fondate su un'osservazione diretta partecipata, ma anche attraverso impressioni e memorie assolutamente soggettive. L'esame della pratica religiosa, in particolar modo, permette di scendere sul terreno delle misure, dei dati misurabili, che sono elementi conoscitivi offerti come necessari per l'esplicitazione di ogni storia religiosa e come indicativi sul resto della società. Allora, che si tratti di pratiche religiose, di clero o altro, lo storico interroga in funzione di ciò che la fonte offre, tenendo conto di alcune caratteristiche esterne della fonte stessa, come la sostanziale omogeneità e la periodicità. Omogeneità. Bisogna dire che è minima, però su dati fondamentali. In genere la diversità fra le liste di visita pastorale risulta abbastanza grande, grazie a maggiore o minore descrittività dovuta a molteplici fattori anche nel quadro di una stessa diocesi. Le diversità presenti nella fonte si lasciano malagevolmente ridurre ad una unità tipologica. Periodicità. La ripetizione periodica della visita, spesso costituendo serie continue a partire dal XV secolo, permette un riscontro con il prima e con il dopo, sia nello stesso luogo che in altri luoghi. Naturalmente la comparazione va limitata a pochi essenziali elementi comuni, con la coscienza che quanto si perde in profondità si acquisisce in estensione, a tal punto da ottenere riscontri e tendenze più generali. Essendo la ripetizione plurisecolare, le comparazioni possibili possono verificarsi sull'arco della lunga durata, con tutte le conseguenze che l'accesso a questa periodizzazione, che travalica l'avvenimento e la congiuntura, comporta come ricchezza di risultati. Quando si affrontino temi legati ai comportamenti collettivi, non se ne può prescindere per evidenziare modifiche, persistenze, mutamenti e permanenze. Questi due elementi rendono possibile una sommaria comparazione sia in senso sincronico che diatonico, in vista di una storia religiosa seriale appena appena delibata dal più consistente centro di ricerca italiano sulle visite pastorali. Qui c'è De Rosa. Una storia seriale presuppone l'esistenza e la lavorazione di lunghe serie di dati omogenei e confrontabili, in cui, come persona che rappresenta un centro che ha una sua tradizione, una sua storia nella storiografia recente italiana. Una storia seriale presuppone l'esistenza e l'elaborazione di lunghe serie di dati omogenei e confrontabili in cui il dato vale non per se stesso, ma solo in rapporto alla serie che precede o che segue. Ciò che diventa obiettivo è il suo valore relativo. La rilevazione di un dato non solo non è interessante, ma non è addirittura comprensibile se non può essere inserita in una serie continua. I dati si costruiscono in base alle domande dello storico, e questa è una rivoluzione della coscienza storiografica. La codificazione dei dati, cioè, presuppone la loro definizione, la quale implica a sua volta un certo numero di scelte e ipotesi che vanno pensate in funzione della logica di un programma, leggibile poi da una macchina, ma la macchina interessa solo se permette di affrontare problemi nuovi per metodo, contenuto, ampiezza. La storia seriale descrive continuità in forma discontinua. Non è una storia narrazione, mi si lascia usare l'espressione del Fioré, ma una storia problema, in cui occorre distinguere fra i dati quali sono i livelli in rapida evoluzione mutamento e quali settori fortemente inerti nel medio-lungo periodo. Si tratta di passare dall'implicito contenuto nella fonte all'esplicito, analizzando categorie di dati costruiti per una certa qual trasformazione dell'implicito, che tiene conto di informazioni precedenti offerte in modo tutt'altro che univoco da identificare meglio o da sintetizzare. Difatti l'automazione dei processi elaborativi delle informazioni, alla base di una storia seriale, esige un linguaggio assolutamente conciso, preciso, non consentendo l'impiego di termini non univoci, non sintetici, non precisi. Per una storia seriale non è necessario l'esame e la codificazione di tutta la fonte, né basta un sondaggio accuratamente predisposto. Evidentemente lo spoglio esaustivo dà risultati più sicuri, ma si tratta anche di dominare la massa del materiale offerto dalla fonte col minimo dispendio di forze e di costi. Il metodo del sondaggio permetterebbe di risolvere con sufficiente approssimazione alcuni problemi, andando oltre un lavoro scientifico frammentato in una serie di studi monografici, di inchieste settoriali più o meno esaustive su casi isolati. Peraltro lo storico è spesso portato a fare studi frammentari, specialmente quando gli archivi sono incompleti o mutilati. Con lo studio monografico, in nessuna fase della ricerca si può sapere se il caso studiato è rappresentativo o meno. Ovviamente non è preoccupante, qui salto il discorso sul metodo del sondaggio, non è preoccupante l'interrogativo sul grado di veridicità o attendibilità della fonte, si pensa ad esempio alle risposte dei parroci, dei cappellani, degli stessi laici. Deve preoccupare la domanda di fondo, piuttosto, che va posta sempre nei casi di sondaggio, avendo per obiettivo il rapporto, il raffronto seriale. Quale rappresentatività ha il campione? Il campione è valido, avendo inoltre chiaro che si fa solamente sul materiale rimasto dopo dispersioni, mutilazioni e distruzioni, non sempre gravi, peraltro, avvenute nel corso del tempo, ma questo può essere ugualmente utilizzato rigorosamente, nonostante lacune eventuali. Lo storico, condizionato dal numero e dalla natura delle fonti, non ha piena libertà di scelta del campione. Le distruzioni provocate da eventi fortuiti non dovrebbero però di regola deformare seriamente i risultati proprio per la loro caratteristica. Se però le distruzioni si sono concentrate in modo particolare su una zona geografica o su un periodo, la validità delle conclusioni ovviamente per il suo carattere generale, limitandosi alle zone e ai periodi documentati. Quindi una scelta scientificamente corretta dell'aggregato da sottoporre a indagine è alla base di un'analisi corretta. Un sondaggio si può realizzare solamente raccogliendo una casistica numerosa, seguendo opportuni criteri metodologici, una scelta ragionata di casi, un'unità campione da esaminare, una estrazione casuale dell'unità, eccetera. L'organizzazione ed elaborazione dei dati, nonché la valutazione dei risultati, non può fare a meno della raccolta prioritaria dei dati stessi. Questi sono costituiti dal numero delle unità statistiche, aggregate in gruppi o divise in sottogruppi, delimitate come estensione della rilevazione. L'unità base più idonea, da questo punto di vista, sembra la parrocchia, intesa come cellula fondamentale della vita del popolo di Dio, eccetera, sia in ambiente urbano che rurale e montano. La strada aperta da De Rosa e dal suo gruppo va ulteriormente percorsa anche in questa direzione. Assumendo la parrocchia come carne di qualsiasi ipotesi di sondaggio, non si può prescindere da un sottoinsieme in cui va contestualizzata la diocesi, che rappresenta il quadro istituzionale assunto come unità di media dimensione dove trova sufficiente espressione la fisionomia della chiesa locale, in modo che sia possibile la raccolta seriale delle informazioni. L'insieme dell'universo della popolazione statistica possibile è fornito però da tutte le parrocchie di tutte le diocesi italiane, quindi occorre andare oltre la singola diocesi, attingendo dimensioni spaziali più ampie, le sole che lasciano percepire un'impressione di insieme, non un abito d'arlecchino scomposto al calidoscopio. Allora è possibile e realizzabile una prospettiva comparativa in cui non si escludono verifiche per sottocampioni particolari che superi rilievi isolati. Anche se i dati non riusciranno a esprimere che alcune specie di grandezze, come la rappresentazione del numero delle volte in cui ha avuto luogo una manifestazione di un fenomeno o una sua caratteristica, in tal caso si esprime una frequenza, la indicazione di misure o altro, la loro correlazione con due variabili, come quella cronologica e quella geografica, riesce ugualmente interessante ai fini della ricerca. Peraltro, un'analisi quantitativa, che dà a sua volta un contributo alla critica della fonte, non è in sé garanzia di esattezza, soprattutto quando si riponga eccessiva fiducia nello strumento tecnico adottato, da cui ci si può lasciare condizionare invece di condizionarlo alle esigenze e alle domande dello storico. Con queste avvertenze cadono, a mio avviso, alcune difficoltà nell'utilizzazione della fonte per uno studio seriale. Non è necessario infatti l'esame di tutto il corpus delle visite pastorali di una diocesi e di tutte le diocesi, bastando conoscere preliminarmente almeno la nota delle parrocchie visitate. È evidente, l'ho notato De Rosa, che una storia seriale non può presumere né di identificarsi con la storia della pratica, né e tantomeno con quella della pietà, che vuol cogliere l'interiorità del fatto religioso. Tuttavia non si tratta di formulare un modello, ma semplicemente un'ipotesi di lavoro che tenga conto sia di un'impostazione storico-documentaria sufficientemente articolata e assolutamente non rigida, sia un'impostazione statistica applicata all'unità base, suscettibile di elaborazione elettronica. In pratica, si compie un sondaggio in cui l'unità base campionata, come l'individuo nei sondaggi sociologici, si presenta con caratteristiche originali, sue proprie, più o meno loquace, anche nei confronti delle medesime domande, talvolta sarà anche reticente o muto. Sta allo storico leggere, interpretare, discutere e problematizzare, anche sulla scorta di altre informazioni. In suo possesso, come sta allo storico definire la problematica? Andare oltre la formulazione di un modello non significa non tener conto del dibattito storiografico. È forse una soluzione al dilemma come far aggiungere a generalizzazioni senza setacciar via gli individui e le situazioni? O viceversa, come descrivere situazioni, persone, senza cadere in tipologie, esempi, senza rinunciare alla comprensione dei problemi generali. Forse sì, però, per le visite pastorali occorre passare da un'ipotesi a verifiche sul campo. Il risultato sarà quello di mettere in rilievo gli aspetti quantitativi dei fenomeni esaminati, interpretati nel loro contesto, ma senza il rischio di ridurre il dato storico a puro dato statistico. In Italia il dibattito storiografico in questo settore si è focalizzato su una proposta elaborata da De Rosa e realizzata dal Centro Studi di Ricerca per la Storia Sociale e Religiosa di Vicenza. Dopo attenta riflessione è stata scartata la proposta di un approccio analitico schematico formulato in prima istanza dalle Brass, il quale nei suoi studi di sociologia religiosa ipotizzava un modello articolato da applicare a ogni visita pastorale a fine di ricavare il massimo numero di informazioni sulla pratica pastorale. L'approccio di De Brass è stato poi ripreso e sviluppato a partire dal 69 nella proposta di un repertorio delle visite pastorali di Francia, per il quale si proponeva una scheda per ogni visita ricca di oltre 230 items. L'operazione... Lo schema poi, per chi non l'avesse visto, abbiamo gli schemi... No, siccome ho visto che tu hai tagliato una pagina intera, eccetera, cioè, dopo poi si può verificare concretamente. L'operazione di schedatura risulta molto laboriosa e non si sa quanto proficua, se non forse dal punto di vista di raffronto dei vari questionari. Infine, sembra la griglia e l'incasellamento della realtà in essa. Un sospetto di questo tipo sorge perché quella tecnica di ricerca rispecchia modalità epistemologiche degli anni 30. Questa è la mia impressione, confrontata con amici che si occupano di statistica. Infatti si applicano tecniche quantitative non a quantità, ma a percezioni, ovvero a quantità già interpretate. Il momento interpretativo non può entrare a concorrere nella costruzione del fatto perché diversamente si ottiene un cortocircuito, ovvero il dato è costruito col paraocchi della teoria, della ipotesi a prioristicamente posta. Ci si può chiedere a ragione se questo dato quantitativo così ottenuto dia un contributo alla costruzione della storia o non piuttosto alla sua falsificazione, in quanto l'ipotesi non può essere verificata sulla base della realtà. Laddove il vantaggio di un metodo quantitativo corretto consiste, come ad esempio ha sottolineato anche Kula per altri settori, storia economica ad esempio, nella possibilità di esercitare un controllo operativo nell'esattezza dei risultati, controllo non sufficiente di per sé, ma che rappresenta pur sempre un innegabile pregio. Parallelamente in Italia si sviluppa l'esperienza del centro di Vicenza, che proprio nel 69 pubblica il primo di una serie di registri di visite pastorali. Si tratta anche di una grande proposta di lavoro d'equipe e di organizzazione della ricerca insieme, tendente a superare il precedente frammentarismo legato allo studio della fonte, tradotto in una miriade di studi e in qualche rara edizione. Punto 4. L'impegno editoriale si è orientato sui materiali più antichi. Cronologicamente, ce la fai, resisto a questo. Resisto. Collocabili in epoca medievale sino a tutto il XVII secolo. L'impresa più rilevante, quella diretta da Massa per il tesoro russo ecclesiale in Italia, segna il passo. Per me, se ce la fanno loro, stanno dietro. È annunciata. No, è un po' troppo veloce per essere inutile. Imminente l'edizione critica. Allora, rallento un istante, diamo 50 minuti al posto di 45, ecco, ma non. È annunciata imminente l'edizione critica delle visite medievali di Verona, di Ivrea, Ferrara, Pisa, nonché per il XVI secolo, a non considerare l'edizione delle visite apostoliche del Cardinal Valier alla diocesi di Trieste e Zara Venezia, le visite pastorali di Giberti nella diocesi di Verona e di D'Afflitto nella diocesi di Reggio Calabria. Per ora si dispongono solamente gli atti pastorali di Minuccio Minucci, arcivescovo di Zara, editi nel 70. In generale si mira a fornire edizioni integre, benché ciò metodologicamente costituisca sempre un'impresa troppo vasta, ma, come ho osservato in Massa, per chi si occupa di documenti più antichi occorre il coraggio di dare tutta la fonte, facilitandone l'uso con l'orchestrazione di ampi organici indici divisi per classi. Peraltro, se è vero che il materiale antico è raro, non per questo è poco abbondante. Ne fanno fede non poche edizioni della fonte realizzate nel quadro di studi settoriali, frammentari o addirittura pubblicate all'interno di biografie, come la visita pastorale fiorentina del 1446-47, visibile in Orlandi, Sant'Antonino, o come le visite pastorali ferraresi del 1432-1446, reperibili nell'opera del Ferraresi. Si potrebbe menzionare anche l'edizione della visita pastorale di Pavia del 1460, a cura di Xenio Toscani, o quella di Spoleto del 1465, o anche quella del Casentino del 1424. Ma senza scendere la visita del XIV secolo, ma come non ricordare ad esempio la visita di Cortona del 1337 o quella della Val di Nievole del 1354 e 1361. Sono tutte fonti pubblicate opere di singoli ricercatori. Una semplice sommaria ricognizione evidenzia la ricchezza della documentazione per il XIII-XV secolo, soprattutto per l'area centro-settentrionale italiana. Io ho fatto un elenco delle visite italiane note per il XIV e XV secolo, comprendendovi anche l'unica nota, almeno me, del XIII, del 1294 per Fiesole. Ammesso che la ricerca archivistica non mette in luce altri materiali per un periodo così antico, cioè i secoli precedenti il XVI, l'impresa è già consistente tale da richiedere non poche energie, perciò sembra quantomeno ambiziosa l'intenzione di giungere a comprendere anche il XVI e il XVII secolo. Il caso di Ferrara, in fondo, è uno dei più semplici, se si pensa che dopo le visite di Giovanni Tavelli, del 400, si possiedono visite di Francesco Legnamine, Lorenzo Roverella, sempre per il XV secolo, e quelle del Fontana, 1591-92, poi 1600, per il XVI secolo, più una visita apostolica del Mare Monti nel 1574. Ma se si prende in considerazione le visite pastorali di Bologna, tanto fa un caso, di Milano, non basta una collana editoriale, tanto è vasta la massa documentaria. Indubbiamente anche il XVI secolo conosce varie edizioni integre. Non considerando quelle trascritte in tesi di laurea, si pensa a quella ad esempio del Niguarda, recentemente riedita per quanto riguarda la Valtellina. Gli atti, la Valtellina negli atti della visita pastorale diocesana di Feliciano Niguarda, vescovo di Como, annotati e pubblicati nel 1892 da Monti, riedite nel 1963, o a quelle del Bollani per Brescia, a cura di Guerrini, atti della visita pastorale del vescovo Domenico Bollani alla diocesi di Brescia, tre volumi, a quelle di Ercole Gonzaga per Mantova, compiute tramite il vicario generale Francesco Marno, Putelli, Vite, Storia e Arte Mantovana nel 500, due volumi. Per la Valtellina, come per il Bresciano, si traccia per ogni parrocchia un breve profilo storico con la pubblicazione di possibili fonti documentari arricchite di elenchi di parroci, eccetera, con scarsissima attenzione alla descrizione della fonte stessa. Appena appena più diffuse le notizie su Mantova, Putelli dice: i codici che recano gli atti delle visite nostre sono tutti cartacei, parecchi già deteriorati in immagini. Molti punti della relazione hanno note marginali, posteriori di 2 o 3 anni appena, che modificano alcuni dati che, parendomi quasi sempre notevoli, credei bene riprodurre nel testo medesimo fra parentesi. Complessivamente si giunge a edizioni senza troppi fronzoli, ma spesso si perdono anche gli elementi essenziali al riconoscimento della fonte stessa. A partire dagli anni 30 non conosco che un'avventura editoriale, peraltro interessante nei suoi esiti, il tentativo di Cavalli di pubblicare il più antico manoscritto delle visite pastorali della diocesi di Lumi, relativo alla visita del 1568 compiuta dal cardinale Benedetto Lomellini. Alla descrizione del manoscritto segue quella dei fascicoli, delle carte sparse allegate, quella delle filigrane, quella delle varie mani che hanno redatto le relazioni delle visite, ben 14 mani. Ognuna di esse ovviamente ha le sue caratteristiche, che però non si limitano all'aspetto grafico, ma richiamano e riguardano anche l'uso della lingua, latino volgare, il sistema di datazione, il modo di impostare le proposizioni, l'uso della prima o della terza persona per il resoconto della visita. E continuando l'esame filologico, Cavalli ipotizza la seguente produzione successiva di atti scritti durante la visita, cioè appunti delle visite, stesura definitiva, decreti ai parroci in duplice copia, fissione di una di queste copie alle porte della chiesa, trattenuta l'altra presso il visitatore, infine ordini di comparizione al sino. Per i criteri di edizione si sono adottati quelli paleografici, normalmente in uso soprattutto presso i medievisti, e il tentativo singolo più rigoroso prima dell'impresa del Thesaurus Ecclesiarum Italiae, improntato dalla necessità di moderni criteri scientifici. Le poche edizioni, peraltro discutibili, delle visite pastorali del XVI secolo hanno tutte incontrato un grande limite nell'impossibilità di contenere la massa dei documenti. Qui soprattutto trova spiegazione la mancanza di edizioni della fonte a partire dal 1940, in una stagione peraltro feconda di studi. Le edizioni precedenti sono frutto di un clima storico segnato dal positivismo e dal modernismo. Parlano le date: edizione di Como 1892, di Brescia 1915, Spoleto 1916, Bergamo, anche se è la visita apostolica del Borromeo, edita a partire dal 1936, però i primi interventi di Roncalli sulla fonte sono del 1909. È ovvio allora che da questa crescente abbondanza di materiali deriva anche la necessità di un diverso approccio e un diverso comportamento da parte dello storico, che non può non tenerne conto. Difficile, oltre che il discorso delle edizioni, risulta il reperimento di edizioni parziali delle visite pastorali, organizzate per tematiche. Senza considerare la pletora di visite parrocchiali volte ad illustrare una singola realtà locale, particolarmente abbondanti in area lombarda, e bisogna dire in genere di bassissimo livello, l'esempio più significativo sembra quello di Marcocchi, la riforma dei monasteri femminili a Cremona, gli atti inediti della visita del vescovo Speciano. Ora, l'editore in una vertenza nota, e qui lo leggo perché è interessante, la pubblicazione dei decreti è quasi integrale. Ho omesso la pubblicazione dei decreti volti a promuovere riforme e da innovazioni nella chiesa del monastero che pure fanno parte delle ordinazioni dello Speciano. Non mi è parso che valesse la pena pubblicarli. Quindi sono stati editi solo i decreti dedicati alla riforma delle monache, proprio perché questi sono i documenti più rilevanti e significativi. Non tutti infatti meritano di essere editi. Quando ho amputato il testo di parti non rilevanti, ho indicato la omissione con alcuni punti di sospensione, dove ho tralasciato la pubblicazione di un decreto, dato del decreto stesso un breve assunto posto fra parentesi quadre. Per rendere più agevole la lettura e più accessibile la consultazione dei testi, ho contrassegnato ogni decreto o ogni gruppo a fine di decreti con un titolo che ne indichi l'argomento. Ho stimato utile estendere note esplicative di fatti, personaggi, istituzioni, norme legislative desunte da altre fonti o documentari o bibliografici, intesa ad integrare e illustrare quanto è detto nei decreti. Le illustrazioni che sono state inserite nel testo assumono anche il valore documentario. Nella documentazione dei decreti ho stimato opportuno rispettare la successione cronologica. Ho inoltre fatto seguire i decreti della seconda visita e i decreti della prima anche per quei monasteri che li hanno nel codice in luoghi diversi, e ciò per consentire il raffronto. Ho riprodotto fedelmente il testo, adattando all'uso moderno solo la punteggiatura e sciogliendo le rare abbreviazioni. Più facile risulta il reperimento di esemplificazioni significative di campioni di visita. Si prendono 2 verbali di visite relative al medesimo paese, ma compiute a distanza di qualche anno. Il raffronto risulterà sempre rappresentativo e interessante. L'ha dimostrato Franco Molinari nel suo Murali, l'ho fatto anch'io per Rimini. Talvolta si forniscono elementi parzialissimi, desunti dalla fonte, articolati per tematiche, moralità, residenze, edifici ecclesiastici, confraternite, istituzioni, culto eucaristico, liturgia, con risultati, bisogna dire, molto deludenti. Altre volte, anche in studi specifici, ci si limita a cenni di circostanza. Affrontare il problema dell'edizione della fonte significa fare anche i conti con le possibilità reali di compiere un'impresa sul fatto, che evidentemente sono abbastanza pesanti a partire dal XVI secolo. Punto quinto. Il Centro per la ricerca di storia sociale e religiosa di fatto ha ovviato a un simile inconveniente quando ha proposto e realizzato la registrazione della fonte, intraprendendo un'impresa, quella di pubblicare un corpus organico di visite ben periodizzate, unica nel suo genere. Già Tramontina aveva occasione di notare che uno dei criteri fondamentali che ha condotto alla registrazione è stato quello di evitare il rischio di dare tutto. Anche se la registrazione non sarà sempre fedele alla natura dell'unità base, la parrocchia, tuttavia, da un punto di vista metodologico, notava De Rosa nell'introduzione alla visita a Frangini, si è voluto che ogni registrazione riflettesse con la massima fedeltà non solo la documentazione relativa alla visita, ma anche la diversa struttura amministrativa della diocesi all'epoca della visita stessa. Ogni archivio diocesano, ogni diocesi, pur nello sforzo di trovare un'uniformità scientifica di registrazione, ha problemi peculiari, di cui il curatore ha tenuto ovviamente conto. Oggetto della registrazione è pertanto solo il materiale che concerne strettamente la visita. I curatori cioè non si preoccupano di integrare le notizie con documenti estranei agli atti di visita e che con queste non siano nati. In sostanza, la registrazione deve tener conto della natura e della caratteristica della fonte, ma veramente si ritiene metodologicamente giusto che il documento archivistico debba dettare il criterio del registrum in modo che questo, anche nella forma esteriore, riflettesse il documento, la situazione spirituale, sociale e culturale in cui era stato scritto? Le tue parentesi sono me. No, vai pure ad agio, non abbiamo tempo, insomma. La fonte deve riflettersi con fedeltà nello schema, né troppo rigido né troppo astratto, in modo da giungere a un quadro essenziale, sintetico e fedele al tempo stesso, senza essere un arido elenco, ma anzi deve permettere ulteriori approfondimenti. Nella raccolta dei dati, il Centro per le ricerche di storia sociale e religiosa si è uniformato ai seguenti criteri relativi. Primo, alla visita intera. Qui, discorso sul vescovo, decreti di indizione della visita, calendario delle visite, questionari. Il secondo è sulla singola parrocchia, quindi ubicazione, popolazione, struttura, personale, organizzazione, vita religiosa e morale. Lo schema relativo alla parrocchia si è poi concretizzato nella registrazione imperniata su alcuni temi come la popolazione, dove vengono inclusi i dati riguardanti la collocazione geografica della zona, il numero degli abitanti, la loro situazione economico-sociale, quelli sull'istruzione sia pubblica che privata, sull'assistenza sanitaria, sulle istituzioni di beneficenza e assistenza pubblica e privata. Temi come le strutture formali, dove vengono raggruppati i dati sui luoghi di culto, sulla situazione patrimoniale tanto del clero, della fabbrica e di altri enti. Temi come le persone, in sostanza tutto ciò che attiene clero e laici. Temi come l'espressione della vita religiosa e morale, comprendenti l'amministrazione dei sacramenti, celebrazioni di culto, forme di pietà, titoli degli altari, numero delle messe, frequenza del catechismo, predicazioni, osservazioni sul clero e sul popolo. Il modello usato è stato edito anche poi nelle visite pastorali della diocesi di Feltre dal 1857 al 1899 a cura di Dalmolin. Sostanzialmente è articolato su 8 grossi punti: il primo, nome della parrocchia, il secondo, sommario dei documenti, il terzo, sommario delle fonti, il quarto, popolazione, ivi comprese anime, sanità e istruzioni, il quinto, le strutture formali, cioè chiesa parrocchiale, altre chiese, canoniche, archivi, fabbriceria, beneficio parrocchiale, reddito dei cooperatori, elemosine, offerte straordinarie. Il sesto punto sono le persone, clero, familiari del clero, fabbriceri. Settimo, la vita religiosa e morale, in cui sono compresi i sacramenti, catechesi, liturgia, obblighi di culto, devozioni, confraternite, osservazioni sul clero, osservazioni sul popolo. E infine, l'ottavo punto è il decreto dispositivo. Scusa un minuto. Questo schema l'hanno presente i partecipanti? Poi faccio fotocopiare anche questo. Facciamo fotocopiare. Il criterio di registrazione può subire anche qualche modifica quando si tiene conto di un arco cronologico che va dal XVI al XIX secolo. Della lingua usata nella stesura, della stessa articolazione delle visite. Ne esempio lo schema adottato da Cestaro nelle diocesi di Conza e di Campagna nell'età della Restaurazione. Inoltre, la registrazione della visita pastorale di una diocesi va prevista in rapporto alle visite precedenti e successive, sia della stessa diocesi che di quelle vicine, onde permettere un'adeguata comparazione dei dati che indicano nel tempo lo sviluppo storico-religioso di una certa zona geografica. ma anche così non si risolve il rapporto di amore e odio, credo, con la storia seriale. Perché è vero che si mette a disposizione dello storico una ricca serie di materiali grazie a un utile strumento di ricerca fornito da Regestum, ma la registrazione resta registrazione. Non ci si può mai esimere dal ricorso all'originale per compiere gli adeguati confronti dei dati della fonte. D'altra parte, per quanto utilissimi e ricchi di informazioni, gli ampi studi che spesso precedono la registrazione della fonte inducono alla pigrizia intellettuale il lettore. C'è troppo come introduzione alla lettura della fonte, quasi sminuita dalla corposità dei saggi ricerca e per vari aspetti importanti, e troppo poco come studio di un testo in un contesto, per cui sorge la domanda: qual è l'obiettivo? La registrazione della fonte o il suo studio, quanto dire poi la sua necessaria integrazione con altri? È una domanda non peregrina, credo. A mio avviso occorre separare la registrazione di una fonte, condotta con criteri metodologici specifici, dallo studio della stessa, anche se ovvio, e lo ricordava De Rosa, che mentre si raccoglie, si avvia al tempo stesso un discorso storico. Così emergerebbe maggiormente come la fonte visita, da studiare nella sua globalità perché possa essere letta come corpo unico, più o meno omogeneo ogni volta, in realtà è composta e costituita, quasi costruita, dalla sommatoria di n unità, non sempre coincidenti con l'intero universo diocesano specifico. Le singole visite alle parrocchie, poi a confraternite, ospedali, eccetera, risalterebbero ancor più come singole unità documentarie registrate, di cui si riportano in lingua originale le parti più significative, segnalando anche materiali distinti o separati, anche materiali specifici, come inventari, interrogatori, informazioni riservate, eccetera, diversi a seconda che la fonte sia più o meno ricca, e le notizie base dello schema fontato. Mettere a disposizione queste informazioni è importante, avvicinandosi così a un tipo di registrazione standard adottata con proficuo successo e notevoli risultati in analoghe operazioni relative, ad esempio, ad altre fonti, soprattutto penso a quelle medievali. Punto 6. In ogni caso, qualsiasi operazione compiuta sulla fonte ha fatti i conti con il reperimento, l'ordinamento, la schedatura, il censimento della fonte, operazione preliminare e fondamentale. Tutti hanno presente il gran numero degli archivi ecclesiastici italiani, dove generalmente sono rintracciabili le visite pastorali, nonché le condizioni di precarietà, spesso di disordine in cui versano, la non infrequente dispersione di quelli appartenenti a diocesi soppresse, il difficile accesso e così via. Lo stesso Centro per le Ricerche di Storia Sociale e Religiosa, al fine della registrazione, si è preoccupato previamente di assicurarsi una specie di inventario repertorio di tutte le visite conservate negli archivi diocesani veneti. Del resto, senza un'operazione preliminare di questo tipo, l'analisi dei documenti conservati richiederebbe eccessivi sforzi. Così, sin dalle origini, prevedeva un piano di ricerca insieme archivistico e storico, con il desiderio implicito di giungere al superamento di una deleteria separazione di competenze tra archivisti e paleografi, storici, eccetera, che impedisce incontri fecondi. Quanto hanno pesato i guasti delle istruzioni e le dispersioni operate con tenacia dalle vicende storiche degli archivi sulla ricerca? Prendiamo ad esempio un archivio diocesano ricchissimo e al tempo stesso molto noto, almeno per quanto riguarda le visite pastorali, grazie alle attività del Palestra, del quale non si possono né menzionare tanto le visite pastorali di Milano, un primo inventario nel 1971, e le visite pastorali alle pievi milanesi, un inventario del 77, primo volume, editi in una collana significativamente intitolata Monumenti Italia Ecclesiastica Visitationes. Il fondo delle visite si divide in due parti a Milano: atti riguardanti le parrocchie della città e atti riguardanti le parrocchie delle pievi della vasta diocesi. Già il Cantù nel 1844, in occasione del convegno degli scienziati italiani riuniti a Milano, aveva sottolineato l'importanza e la ricchezza del fondo milanese. A lui si richiamava il Sala nei documenti su San Carlo, quando affermava: gli atti della visita pastorale costituiscono la parte più voluminosa, diremo anche più utile e importante dell'archivio, perché offrono lo stato minutissimo di ciascheduna chiesa nelle diverse epoche in cui fu visitata, e tutti insieme presentano la storia progressiva di ogni parrocchia, non senza curiose particolarità di costumi soventi accompagnate da disegni e topografie. E tanto più questi atti sono importanti perché abbondantemente corredati di interessantissimi documenti e zendio di antica data. Il Sala ha di fronte a sé una realtà archivistica ordinata per parrocchie, la stessa che si trova a esaminare il Palestra. La sistemazione portata a termine da Giambattista Corno, archivista della Curia Arcivescovile a partire dal 1644, separai, egli afferma, tutte le scritture spettanti alle chiese prima della città e poi della diocesi, per molti anni attese a cucirle in quinternetti e portarle al librero da ligarle in tanti libri, è risultata condizionante. Lo smembramento delle visite stesse per unità parrocchiali ha spinto la ricerca in direzione localistica estremamente frammentata, priva di possibilità comparative e chiusa nel particolare. Analisi e studi sulle parrocchie non si contano, in area lombarda e milanese, ma si tratta proprio di studi di scarsa rilevanza anche dal punto di vista della pubblicazione di singole visite pastorali. Così per il XVI secolo, per il periodo che gravita attorno ai due Borromeo e particolarmente attorno al primo, si è assistito alla produzione di un'enorme quantità di studi. Per questo secolo, come per il precedente, si deve notare la scarsità di indagini sul governo, la struttura ecclesiastica, la vita religiosa dell'intera diocesi milanese. Per il XVI secolo, perché la base documentaria offerta dalle visite è abbondantissima, per quello precedente, perché è estremamente esigua. Per l'area lombarda, si può segnalare un altro caso di scompaginamento archivistico, in cui si è imbattuto Bernorio nella sua ricerca sulla chiesa di Pavia, nel XVI secolo, e l'azione pastorale del cardinale Ippolito De Rossi. E per fortuna, non sto a leggere il caso da lui ricordato, ma è del tutto sindaco milanese, per fortuna il deleterio esempio milanese non è stato tenuto presente del tutto, sicché si sono conservate anche alcuni registri di visita nella loro integrità. Cioè lo smembramento, lo smembramento a seconda delle parrocchie, esatto, le singole carte in divisi per parrocchie. E qui è inciso proprio l'influsso milanese, perché è un'operazione che è stata compiuta alla fine del secolo scorso. Peraltro, le visite pastorali possono essere reperite anche in un archivio diverso da quello originario, come si è verificato per alcune visite di Cortona del 1383 e del 1422 conservate nell'archivio arcivescovile di Firenze, o per gli atti e decreti della visita pastorale di Minuccio Minucci, reperibile a Roma all'Istituto Storico Germanico nell'archivio Minucci. Possono essere reperite anche al di fuori dell'archivio diocesano nelle fizze dei notai che le scrivevano, talora in mezzo ad altri atti. Ad esempio, nei rogiti del Castellani a Bologna sono conservati sparsi resoconti delle visite del cardinale Bergati, compiute fra 1425 e 1437. La prima parte degli atti di una visita pastorale pisana del 1462-63 a Firenze, nel notarile Dante Cosimiano, e il fenomeno non tocca solamente le visite più antiche, ma anche quelle del XVI secolo. Un caso cospicuo l'ho verificato nella diocesi di Rimini, ma si potrebbero anche trovare altri casi. Il fatto non è strano se si pensa alla storia ancora da scrivere delle diocesi italiane create ex novo, alcune ristabilite, altre soppresse, unite a sede diversa, altre ancora. E qui mi viene in mente lo studio che ha fatto Ei sulla Chiesa nell'Italia rinascimentale, dove illustra l'ubicazione delle diocesi dividendo il numero in Italia centrale, meridionale e settentrionale, facendo i raffronti fra XV e XVI secolo. Peraltro, la conoscenza di un fondo d'archivio pesa sulla ricerca. In Italia, proprio da questo quadro che Ei ha tracciato, si ha la realtà corposissima delle diocesi italiane rispetto a diocesi di altre nazioni. Da allora si sono prodotti inventari estremamente puntuali, come quello della Chiesa Vescovile di Siena, edito nella collana degli archivi di Stato. In esso si descrivono tutte le visite pastorali senesi, offrendo in genere segnatura, titolo, periodizzazione, consistenza, autore, nonché una breve indicazione del contenuto. Ma non sempre gli inventari rispondono alle attese. Dico, ad esempio, dal Archivio Storico Diocesano di Napoli, la guida curata da Galasso e dalla Russo si limita a indicare il periodo cronologico della visita e il visitatore. Altrettanto si dica per le visite pastorali della diocesi di Padova, un inventario di Bellinatti e Baldini. E altre volte si sintetizza brevemente un intero fondo, come quello della diocesi di Campania, in archivi ecclesie, si dice fondo undicesimo, visite pastorali, buste 14, comprende le visite pastorali compiute tra 1564 e 1883 dai vescovi, giù l'elenco dei vescovi. Vuol dire, questo è il limite della sintesi. Talora si danno informazioni più sommarie ancora per le visite pastorali di Catania. Altre volte si forniscono informazioni relative non alle visite di una sola diocesi, ma a quelle di più diocesi. E qui abbiamo due esempi perspicui, l'esempio delle diocesi pugliesi e delle diocesi calabresi. Certo che lo storico va alla ricerca della fonte armato di buona volontà. Può giungere a fare un inventario archivistico per propri fini individuali di studio, essendo costretto a ordinare la documentazione, talora anche in senso materiale, perché magari è il primo che ci mette il naso dopo tantissimo tempo. E qui non posso prescindere da un'esperienza personale. Quando svolgevo le ricerche su Clero e Fedeli a Rimini, nel 69-70, fondate in modo privilegiato sullo sfruttamento delle visite pastorali, da cui sono stato poi in parte condizionato, e per prima cosa ho dovuto inventariarle, ordinarle, sistemarle, eccetera. E non diversamente ho fatto un'operazione simile quando mi sono intrappeso a una ricerca, che ormai decennale, prima o poi mi deciderò a scrivere, sulla Romagna del XVI secolo. E ho dovuto costruire un quadro sintetico delle visite pastorali romagnole, perché altrimenti non riuscivo a muovermi, nonostante che potesse usare degli ottimi inventari settecenteschi. Però. Difficilmente lo storico dispone di strumenti informativi adeguati che gli forniscano la consistenza accertata del fondo, vale a dire del numero delle visite compiute da ciascun vescovo, con la visione completa del materiale documentario disponibile, la descrizione analitica, la schedatura dello stesso. Individuazione, conservazione e consultabilità del materiale, assieme all'esame della sua consistenza quantitativa e qualitativa e dei suoi contenuti informativi e tematici, sono i primi esiti pubblici dell'impresa pluriennale condotta in Calabria sotto la guida della Mariotti e che ha pubblicato in alcune tesi. Nella descrizione analitica di una visita ha distinto una fase preparatoria, lo svolgimento, luoghi, cose, persone, e una fase finale, provvedimenti. Lo schema risente, non poteva essere altrimenti, dell'influenza di De Rosa, il quale aveva proposto una cosa simile già nel 69. Il lavoro calabrese, che per il XVI secolo, ad esempio, ha permesso di accettare visite pastorali in sole tre diocesi, a Mileto, a Isola e a Reggio Calabria, si è realizzato grazie a una complessa trama organizzativa senza la quale sarebbe stato impossibile. E ultimo punto, da quest'ultimo punto di vista, fare un censimento essenzialmente inventariale, che però non offrirebbe, anche nei casi migliori, molti lumi, bisogna fare un censimento oppure pensare a un repertorio. Il problema è stato individuato in modo molto chiaro da Prodi, nel 76, quando sottolineava la necessità, da una parte, di rimeditare la scelta compiuta in Francia, in particolare il repertorio delle visite pastorali francesi, uno strumento che può essere poi per gli storici una buona piattaforma di partenza per più solide costruzioni. Dall'altra, la necessità di superare le difficoltà esistenti sul piano dell'organizzazione della ricerca, legate in primo luogo a un lavoro preliminare di raccolta e di sistemazione delle fonti stesse. Questa esigenza era emersa con forza anche in un intervento di Mario Rosa, nel 73, mi pare, il quale aveva insistito sulla necessità non tanto di una registrazione, quanto della conoscenza del materiale esistente, un aspetto pratico, ineludibile e prioritario rispetto al lavoro dello storico. Si chiedeva se non sia il caso di adoperarsi, soprattutto per la compilazione di guide più o meno analitiche, un qualcosa di intermedio, cioè tra il criterio articolato, seguito dai nostri amici francesi, e quello estremamente sintetico, adottato dal gruppo del Centro Studi sulla Storia e Sociologia e Regione del Piemonte, che poi era anche quello diretto o guidato da De Rosa. E un'iniziativa si fatta, in sostanza, il lavoro principale perché si giunga a un'utilizzazione piena della fonte è ancora da fare. Un appello dell'Alberigo del 58, ancora non si dispone di un elenco critico delle visite sia pre-tridentine che post-tridentine, è ancora attuale a distanza di 20 anni. In Italia manca un serio lavoro d'equipe. Del resto un'iniziativa siffatta a carattere di tale vastità da esigere imprese collettive, da rendere superata l'impresa del singolo storico artigiano, incapace anche nel migliore dei casi di elevarsi al di sopra di un microcosmo limitato, e portato quindi inevitabilmente a deformare, con proiezioni non dimostrate, l'elaborazione interpretativa dei macrofenomeni. Lo stesso De Rosa ha sottolineato l'utilità per il ricercatore di repertori come quello francese, improntato ad un'analogia di fini con la registrazione, eppure profondamente diverso. Il repertorio francese offre informazioni statistiche sui contenuti medi dei volumi di visita pastorale. Un repertorio non deve tendere allo scopo di fornire agli storici indicazioni utili al reperimento di informazioni su determinati temi, come si fa invece con l'esperienza francese, quando piuttosto allo scopo di fornire indicazioni utili sulla fonte, non precondizionando la libertà della ricerca, ma anzi favorendola con uno strumento di lavoro sul servizio. Anche l'esperienza polacca va in questa direzione. Assodata la necessità di un repertorio, sorgono non pochi interrogativi. Quale periodo ricoprire, ad esempio? Quali documenti menzionare? Quali criteri usare in una classificazione? Come dare un'idea sommaria del contenuto generale della fonte? E così. Per quanto attiene alla periodizzazione, la problematica cambia a seconda dei vari periodi. In Francia si sono collocate le visite pastorali in due grandi classi, quelle nell'Ancien Régime e nell'età contemporanea. In Germania ci si è tenuti in un'ulteriore divisione, sino al 1700, dal 1700 in poi. In Italia si è verificata una specie di divisione del lavoro. La proposta del Thesaurus Ecclesiarum Italiae giunge a comprendere il XVII secolo. Il Thesaurus Ecclesiale in Italia recensione 6 si limita ai secoli 18-20. Questa divisione funzionale tiene conto dell'onda lunga del Concilio di Trento sino a tutto il XVII secolo. Si potrebbero fare varie considerazioni, mi limito a una di carattere tecnico. Mentre per i secoli seguenti, 18-19, ci si limita esclusivamente alla sola fonte, per il periodo precedente la fonte risulta semplicemente una delle fonti. Ovviamente i problemi di un repertorio sono quelli legati, non sono quelli legati a una edizione o una registrazione. Per un repertorio della fonte interessano le prime visite documentate di una diocesi, una data precisa ante quem non è definibile con precisione. In qualche rarissimo caso si faranno visite del XIII, in qualche altro del XIV, in altri del XV o XVI, in ogni caso le prime attestate. Poi via via, in ordine cronologico per ogni diocesi, tutte le altre comprese entro un termine prefissato che abbia la caratteristica di rispondere a notevoli mutamenti strutturali e societari. Si potrebbero ipotizzare, ad esempio, il 1799, 1870, 1915, 1965, però senza trascurare, ad esempio, quei mutamenti che hanno inciso marcatamente sulla struttura dell'unità base, la parrocchia, profondamente mutata, ad esempio, fra rivoluzione francese e restaurazione. Le soppressioni non sono state influenti. Cioè. Senza entrare nei dettagli di una possibile classificazione, sembra necessario aggiungere anche una presentazione per diocesi e all'interno di ogni diocesi per ordine cronologico, segnalando anche ad annum le visite pastorali attestate, ma perdute, ove sia possibile. Occorre lasciarsi guidare dalla fonte, non dalla classifica archivistica, quando c'è, quindi occorre indicare al loro posto effettivo le differenti visite incluse in un medesimo registro, nominando parrocchia dopo parrocchia con le date relative. È utile la indicazione specifica delle parrocchie visitate in quanto unità base, piuttosto che quella di singole località o di zone più ampie, come potrebbero essere con vario criterio, ad esempio, un vicariato, una valle, una città. In sintesi, una scheda di visita pastorale dovrebbe tener conto dei seguenti elementi. Almeno sette elementi. Datazione, precisare l'anno, fissare la data di inizio e di fine della visita pastorale, possibilmente anno, mese e giorno. In mancanza di altro si provvederà alla datazione più puntuale possibile, il solo anno, ma si potrà essere costretti anche ad approssimazioni, pur usando tutte le cautele che la critica impone. Autore, precisare il nome del vescovo, cioè l'autorità sotto la quale si compie la visita, e le date fra le quali compreso il suo episcopato. Terzo, nome e titolo del visitatore e dei visitatori. Quarto, le parrocchie visitate, precisando la denominazione puntuale e l'ubicazione di ogni singola parrocchia, chiesa, oratorio, cappella e così via. La natura, precisando se il documento è originale, copia, segnatura di chi ha siglato la visita pastorale. L'ubicazione, e quindi la referenza archivistica. La bibliografia, se la visita pastorale è stata edita, menzionata. In ogni caso, segnalare tutte le pubblicazioni relative alla visita pastorale stessa, indicando anche il grado di interesse e di importanza. Si deve distinguere un aspetto quantitativo che guarda l'entità e alle caratteristiche del materiale da un aspetto più propriamente tematico, ricavabile dalla fonte, ma di interesse indubbiamente minore nella prospettiva di un repertorio. Dei contenuti della fonte calati in una specifica realtà non si può fornire che un'idea sommaria. Non si tratta di pubblicare parrocchia per parrocchia una lista esaustiva delle indicazioni fornite, ma semplicemente di fornire il quadro complessivo delle informazioni di un registro di visita pastorale, senza eccedere. Qui entra in ballo inevitabile anche una dose di soggettività. Ma se l'obiettivo è quello di realizzare uno strumento di lavoro, un repertorio e non una pubblicazione, sia pure sommaria, allora occorrerà fare così. Perciò basterà sapere che se quella visita può dare informazioni generalissime su un punto A o B, oppure se non dice altro che Z. Per rispondere a queste esigenze, in Francia si è elaborato un questionario fin troppo ricco ed elaborato, i cui limiti sono stati già evidenziati da me. Dopo poi potrà anche discutere. Sarà piuttosto da tenere presente un questionario tedesco che, ad esempio, è più essenziale, sicché con una scheda uniforme e senza eccessive preoccupazioni ci si potrà limitare a chiedere se si danno informazioni generalissime su parrocchie, capitoli, confratelli, ospedali, comunità monastiche o altro, sullo status economico e materiale di una chiesa, sullo status culturale e familiare del clero, sullo status demografico, spirituale e morale dei laici, se ci sono notizie su istituzioni educative e assistenziali, e in qualche caso il tema dei diversi delle minoranze non potrà essere trascurato. L'uso di schede di questo tipo, particolarmente la prima, diventa fondamentale per realizzare un repertorio improntato a precisi parametri di riferimento e a definiti canoni di rilevazione che sia facilmente consultabile grazie a informazioni minime e standardizzate, tali comunque da fornire il quadro su cui a livello di insieme nazionale o di sottoinsieme regionale possa poi lavorare lo storico. Ci si può orientare a un ordinamento per grandi aree territoriali geografiche all'interno di uno schema siffatto per diocesi disposte in ordine alfabetico. Per ovviare difficoltà di mutamenti di confine, sia esso religioso che politico-amministrativo, così frequenti nella storia italiana, sarà opportuno seguire l'attuale divisione regionale, eventualmente quella subregionale. Interrogarsi sul modo di mettere a disposizione degli storici uno strumento valido per affrontare tutte le tematiche, se non tutte, almeno parecchie, delle tematiche offerte dalla fonte, significa continuare l'approfondimento di un discorso filologico sulla fonte e sui problemi che essa pone. C'è ancora, sottolineava il Delumeau nel cattolicesimo del XVI-XVIII secolo, un immenso lavoro da fare per sfruttare la straordinaria ricchezza documentaria offerta dalle visite pastorali italiane. Ma noi desideriamo spremere dal documento tutto quello che esso può dare, trattando la stessa strega di quelli prefettizi, notarili, catastali. Perciò iniziare il riesame della fonte in una fase di profonde trasformazioni storiografiche è necessario anche per acquistare ulteriore consapevolezza delle caratteristiche dei documenti che contengono i dati raccolti e sapere veramente cosa quei dati rappresentano. Questo è un discorso che faceva il buon vecchio Dal Pane, ma credo che sia ancora attuale.